Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Otto e 35 minuti. Buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Si parte con Si può fare. 800 24 00 24. È nell'occhio del ciclone. E questo così, è l'indizio. Parto così, secco, parti subito con l'indizio. Vi voglio belle cariche questa mattina per giocare con noi. Il personaggio della settimana è nell'occhio del ciclone. Cominciate a pensare e a chiamare. Il primo che indovina, come sempre, si porta a casa un libro a tema con la puntata di oggi. Carlo, Milano, Monterosa. C'è sole e c'è venticello. Che si te lo dico a fa? Molto bene. Si sta benissimo. Fino alle 9:50 di solito. Poi dopo fa un caldo pazzesco. Comincia la giornata di caldo. No, io, siccome non mi piace per niente il freddo, ho come regola che non mi lamento mai del caldo, quindi non me ne sto assolutamente lamentando. Dico che c'è proprio un bel caldo per essere maggio. Penso che sia bello su tutta Italia e quindi va benissimo. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Cominciamo subito con un po' di notizie di questa settimana e poi tante altre cose. Vai. C'è una questione che resta sospesa, che è la questione dell'atteggiamento sugli accordi di Parigi sul clima, rispetto ai quali la Presidente degli Stati Uniti, l'amministrazione americana hanno in corso una riflessione interna. Siamo fiduciosi, dopo questa riflessione interna, vorranno partecipare anche gli Stati Uniti, che ovviamente svolgono un ruolo fondamentale. Questi era Gentiloni. Insomma, si attendeva una retromarcia, un cambio di passo in qualche modo degli Stati Uniti sulla questione del clima. Trump ha detto che vuol disdettare gli accordi di Parigi, lo ha detto più volte, anche se dopo l'incontro con il Papa, il segretario il ministro degli esteri Tillerson ha detto: beh, stiamo riflettendo, perché il Papa ci ha chiesto di rispettare quegli accordi sull'ambiente. E gli ha consegnato pure l'enciclica sui temi ambientali. Bravo, vedo che hai seguito. In effetti è vero, c'è stato anche questo particolare. E quindi si aspettava quasi una retromarcia o un annuncio, non c'è stato. Quindi sul clima, divisione tra l'America e gli altri partner del G7, divisioni poi naturalmente apparenti di facciata. Diplomaticamente hanno detto questa cosa, che l'America ci deve ancora pensare, giusto? Sì. Che loro hanno ancora un po' di tempo, però possiamo dire che non è un grandissimo segnale questo, perché uno dice: ci volete ancora pensare, quindi evidentemente non sono tanto d'accordo. Poi diciamo che si è aspettato a dire: siamo in disaccordo. Esatto, sui migranti la situazione è più o meno la stessa, anche lì, soprattutto l'Italia che ospitava questo G7 chiedeva un impegno anche economico per fronteggiare l'ondata dei migranti, per aiutarli nei paesi di provenienza, insomma per migliorare la situazione che ci vede in primo piano, ma anche qui non ci sono stati risultati concreti, dichiarazioni se non due righe all'interno delle dichiarazioni finali. Resta l'unità nella lotta al terrorismo, questo però era un po' scontato. Certo, all'indomani dell'attentato di Manchester meno di questo era difficile raggiungerlo. Cosa si muove poi sotto traccia non lo sappiamo neanche noi, ma staremo a vedere. Però quello che invece si muove sopra traccia è quello che sta accadendo in Venezuela, perché sono ormai diverse settimane che c'è una protesta incredibile. Questa settimana siamo giunti a quota 65 vittime e vi facciamo sentire questa voce qua e questi suoni qua, che sono di un ragazzo che è diventato una specie di simbolo di questa protesta. Lui si metteva tra i carri armati dell'esercito e le camionette della polizia e i manifestanti, seduto a suonare il violino. Il violino, sì. Dicendo, beh, datevi una calmata tutti. Niente, a un certo punto gli hanno preso il violino, gliel'hanno fracassato. E ma gliene hanno regalato uno nuovo di violino. La protesta y después se acercaron los motorizados de la Guardia Nacional y cuando pasó me agarró el violín por las cuerdas, yo no solté el violín y después se comenzó a arrastrarme con la moto por toda la avenida. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila. C'è gente che ormai se la sogna di notte, questa canzone appare quasi come in un incubo perché la stiamo sentendo dappertutto, ci piace, almeno mi piace sempre tantissimo molto. La sentiamo. Bambini le cantano, si divertono, ballano. È vero, anche bambini piccolissimi, io nei miei 10 nipoti ne ho diversi che cantano tranquillamente, sanno a memoria tutto il testo e hanno anche meno di 5 anni. Sentiamo se è piaciuta anche a Nadia Buzzecri, presidente dei Giovani Musulmani d'Italia. Nadia, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno a voi, sì, buongiorno. Ormai è un cult, questa canzone la sentiamo ovunque assieme a Rovazzi. Esatto, siamo l'altra è Rovazzi. Senti, no, questa canzone ironizza un po' sui rapporti a volte difficili della società occidentale, di noi occidentali, con i temi della spiritualità, il rapporto appunto anche con la cultura orientale. Abbiamo scelto questa canzone, Nadia, perché vogliamo parlare con te di un fatto importante che riguarda tutti i nostri concittadini di religione musulmana, che da qualche giorno avete iniziato il Ramadan. Da quando esattamente? Da ieri era il primo giorno, oggi è il secondo giorno, sì, è iniziato il mese che diciamo tutti i musulmani aspettano, perché se anche si digiuna, quindi è il mese del digiuno, è il mese anche del nutrimento spirituale principalmente. Ecco, e che quindi, significato ha? Raccontacelo, dal punto di vista proprio della vostra religione, uno dei pilastri dell'Islam, dal punto di vista spirituale, poi parliamo anche di come metterlo in pratica, delle complicazioni che ci possono essere con a livello di convivenza con chi vi sta a fianco, perché il vicino che dice ma cucinano di notte e fanno le feste, oppure persone che magari durante il giorno non mangiando hanno difficoltà a svolgere le attività quotidiane. Però dal punto di vista spirituale che importanza ha? Allora, dal punto di vista spirituale diciamo che è uno dei maggiori pilastri, dei 5 pilastri dell'Islam. Digiuna, cioè non è tanto fare il Ramadan, ma quanto fare il digiuno del mese di Ramadan, perché Ramadan è un mese. È come dire, cioè non è che faccio dicembre o faccio gennaio, faccio il digiuno a dicembre okay. o a gennaio. Quindi partiamo da sfatare questo mito, è Ramadan, non Ramadan. Giustamente, giustamente. Molti in radio si salvano perché non si vede il labiale, quindi qualcuno dice no, guarda che veramente ho detto Ramadan. E invece poi cos'altro? Diciamo che dall'alba al tramonto ci si astiene dal mangiare, dal bere, piuttosto che dall'avere rapporti sessuali o fumare o altro. Principalmente lo scopo non è quello di rimanere a digiuno, ma quanto di elevare la propria anima, quanto un nutrimento spirituale o un avvicinarsi a Dio. Questo è lo scopo principale del digiuno del mese di Ramadan, che passa attraverso il digiuno. Ovviamente non tutti sono obbligati a digiunare. Sì, ecco, questo è curioso, perché non tutti sono obbligati? Per esempio i bambini forse non sono... Ad esempio i bambini, piuttosto che gli anziani, i malati, chi è malato, chi è in viaggio, perché ovviamente il digiuno non deve essere un qualcosa che va a portare danno o arrecare danno al corpo, al fisico, quanto a migliorarlo. Certo, e quindi, anche chi fa la maturità? Anche chi fa la maturità. No, perché allora, arriviamo sì, a questa questione. Che, scusami, principio, sì. Solamente un secondo, perché una delle questioni è il fatto che il mese di digiuno, quindi di Ramadan, è esattamente l'ultimo mese di scuola prima degli esami. Quindi l'ultimo giorno di digiuno corrisponde all'ultimo esame, giusto? Uno ci arriva un po' spompato o no? Allora, partiamo dal principio che c'è, cioè, ogni anno c'è, cioè, il mese di Ramadan, c'è, cioè, scala di fai 10-11 giorni, sì, quindi sì, certo. Quest'anno conosciamo la Pasqua, quindi è una cosa che conosciamo anche quindi noi. Corrisponde a quest'anno agli esami di maturità, ma anche agli esami degli universitari. Partendo dal principio che se il digiuno ti fa male, e quindi se stai male, anche se tu sei una persona sana, ma digiunando vedi che non ce la fai, che stai male, a prescindere dagli esami è ovvio che interrompi il digiuno, perché la tua salute viene prima di tutto. Quindi, cioè, questo principio vale per tutti, sia per studenti che lavoratori o anche persone che non stanno svolgendo un'attività intensa, ma digiunando vedono che non riescono a portare avanti il digiuno durante la giornata. Io sinceramente, adesso sto dando gli esami universitari, bisogna semplicemente trovare il proprio equilibrio, ovvero c'è chi magari riesce a studiare meglio la mattina, chi invece magari perché già ha uno stile di vita notturno riesce meglio a studiare la notte. È ovvio che magari un'ora prima del tramonto non è che il cervello è molto presente per seguire, per stare sui libri. Quindi però, se uno è musulmano e studia bene la mattina è un disastro. L'ideale è studiare bene la notte, di modo che può mangiare tranquillamente. L'importante è che trovi il tuo equilibrio, perché giustamente i primi giorni sarà magari difficile ritrovare l'equilibrio. Però bene o male, se trovi il tuo equilibrio, che riesci a studiare meglio la mattina piuttosto che la sera, è fattibile. Questo ovviamente parlo per i giovani, mentre invece per i bambini piuttosto che gli adolescenti, che non sono neanche obbligati a digiunare, è ovvio che lì non si cerca di mettere i bambini in difficoltà, perché poi capita spesso che i bambini, vedendo gli altri digiunare, per dimostrarsi adulti e dimostrarsi grandi, digiunano. Però i genitori, cioè, solitamente gli fanno digiunare un paio di ore e poi mangiano. Allora, fermiamoci un attimo per le informazioni sul traffico e poi 800 24 00 24, cari ascoltatori italiani, non italiani, di religione cristiana, di religione musulmana, che impatto ha sulle nostre vite il digiuno del mese di Ramadan? Vi aspettiamo tra pochissimo di nuovo con Nadia. 800 24 00 24. Cerchiamo anche un personaggio però della settimana, ricordiamo l'indizio, che è nell'occhio del ciclone. A tra poco. Allora, eccoci qua con Nadia Buzekri, presidente dei Giovani Musulmani d'Italia. Stiamo parlando del mese di Ramadan, il digiuno del mese di Ramadan. Lei ci ha insegnato a distinguere che Ramadan è il nome del mese. Durante questo mese i fedeli di religione islamica digiunano, si astengono dal mangiare, dal bere e anche da attività sessuali, Nadia? Sì, dall'alba al tramonto. Cioè, da solo dall'alba al tramonto. Dall'alba al tramonto. È più facile quello, giusto? Non so. Beh, dall'alba al tramonto è più facile astenersi dalle attività sessuali piuttosto che dal mangiare, nel senso che di notte poi si può fare tutto. È calato un attimo di silenzio, Nadia. Più che altro perché fa caldo, abbiamo tutti fede. Esatto. Quindi, certo, il bisogno principale semmai sarebbe quello. Scusa, ti faccio una domanda velocissima, ma tendenzialmente nella comunità musulmana la maggior parte delle persone osserva il Ramadan, il digiuno del Ramadan, oppure no? Oppure come da noi, che anche da noi ci sarebbe la quaresima, che sono 40 giorni in cui non si dovrebbero mangiare dolci, ma moltissimi cattolici sappiamo che in realtà i dolci li mangiano. Invece tra i musulmani quanti seguono pedissequamente il mese di digiuno di Ramadan? Contando che ovviamente c'è la libera scelta della persona, cioè, perché alla fine è una cosa tra te e Dio, cioè tu puoi anche fingere di essere a digiuno, poi ti giri e mangi per quello che ti pare. Però devo dire la verità, è uno dei pilastri più sentito, perché vedendo anche gli altri che sono a digiuno, cioè è molto sentito il digiuno di Ramadan, quindi sono in molti che lo praticano. Poi ovviamente ci sono sempre le percentuali di chi effettivamente non lo ritiene un pilastro importante e decide di non praticarlo. Certo. Però è molto sentito il digiuno di Ramadan. Senti Nadia, sulla questione che diceva prima Carlo degli esami di maturità, c'è stato un sindacato di studenti italiani, credo fra l'altro non di matrice religiosa, perché non hanno niente a che fare con associazioni di tipo islamico e musulmano, che chiede alle autorità di cambiare le date degli esami di maturità per venire incontro proprio agli studenti musulmani, perché possano fare il digiuno di Ramadan compatibilmente con gli esami. Tu ci stavi suggerendo un'altra soluzione, che è quella di dire se uno ha bisogno di mangiare o di bere durante questo periodo, perché deve studiare, deve fare comunque degli sforzi, deve affrontare delle prove, c'è un'esenzione tranquilla, tollerabile. Anche le autorità religiose, gli imam, concepiscono questa possibilità? Oppure un'esenzione per gli esami è un'esenzione a prescindere per chi sta male. Cioè, se io, indipendentemente dallo studio, vedo che sto digiunando e non riesco ad andare avanti, è ovvio che devo interrompere il digiuno, cioè perché è un male, è un malessere fisico che non sto bene. Se invece è semplicemente un calo di concentrazione, più che altro ti direi, cioè, scegli degli orari diversi nei quali studiare. Poi ovviamente dipende molto dalla persona. C'è chi sente molto il digiuno di Ramadan e difficilmente, perché poi i giorni che non digiuni li devi recuperare in seguito. Ah, esatto. Cioè, come funziona? Per esempio, sono in viaggio, sì, e per quei 2 o 3 giorni non posso digiunare, sì, durante il resto dell'anno dovrò recuperare quei due o tre giorni di digiuno. Ah, però quindi c'è gente che magari ha fatto molto male il Ramadan che ne ha da recuperare tipo 670 giorni ancora. No. Tipo le ferie da smaltire. Esatto. No, solitamente è consigliato, cioè, recuperarlo entro il prossimo Ramadan. Certo. Quindi hai un anno per... È la stessa cosa per le ferie, che infatti le aziende vorrebbero smaltirle, però poi a volte uno rimane con 416 giorni. Però sì, cioè, comunque l'importante è che la persona stia bene, indipendentemente dalle motivazioni, che sia studio o lavoro, cioè penso ai muratori sotto il sole, piuttosto che a tante categorie sociali in cui sinceramente penso che facciano uno sforzo maggiore rispetto allo studente. E ovviamente, cioè, dipende anche dall'età, cioè se parliamo di giovani, sinceramente vedo anche gente, ho fatto Ramadan a Marrakesh in Marocco, ragazzi che giocavano con 50 gradi sotto il sole a calcio, sì, e, cioè, anzi, lo sport fatto magari qualche ora prima del digiuno è anche consigliato a livello medico, perché, cioè, permette anche di smaltire energie. Certo. Senti, però, tu ci stavi dicendo, no, che insomma il digiuno di Ramadan è uno dei pilastri più seguiti, più sentiti dai fedeli musulmani, e quindi viene seguito, rispettato, eccetera. Quindi c'è un'adesione ancora ampia, magari meno di quello che accade con noi per la nostra tradizione, per esempio, di Pasqua, dove, come diceva Carlo, siamo un po' più distratti, più di noi. Sicuramente. Ti voglio fare una domanda che non ha a che fare direttamente con Ramadan. Ieri Libero, in prima pagina, il giornale, scriveva: il 99% dei seguaci di Allah tifano per l'ISIS. Ora, un titolo che io ho definito aberrante, però ammettiamo per un momento che non volessero intendere che il 99% dei fedeli musulmani sono potenziali radicalizzati o terroristi, ma cosa volevano intendere? Che volessero dire, per esempio, che dal punto di vista delle finalità di questo dell'ISIS, del fatto di voler instaurare un califfato, comunque di colonizzare in qualche modo con la religione islamica, con i precetti dell'Islam, anche i paesi che non seguono questi precetti. C'è secondo te questa idea che in qualche modo la società che vi ospita, l'Occidente, l'Italia, sia un paese da corrotto, da cambiare, da migliorare, che ci siano valori decadenti, che quindi sia auspicabile per esempio un califfato Fino a prima del califfato sembrava il programma del 5 Stelle, scusami. No, più che altro, cioè, la cosa che mi verrebbe automatico da dire è che in queste sere di Ramadan le invocazioni, le preghiere sono le cose che vengono più raccomandate, e in tantissimi pregavano per far sì che l'ISIS smettesse, piuttosto, cioè, le morti, l'ingiustizia. Quindi, cioè, non penso che il 99% dei musulmani sia con l'ISIS, sia con il califfato, e più volte la comunità musulmana in tutto il mondo l'ha dimostrato. Più che la società italiana ci ospita, io sono nata in Italia, sono italiana, ricordiamolo. Ci tengo a dire che essere italiano non vuol dire non poter essere musulmano, anzi, ognuno deve avere la propria libera scelta di professare la propria religione. Questo assolutamente, certo. E libero, sinceramente, non mi stupisco di queste uscite. Mm-hmm. Più che altro vorrei sapere che Istat utilizza, cioè che percentuali, che dati utilizza, cioè inventando più che altro non solamente menzogne, ma soprattutto screditando un'intera comunità che cerca, per come può, di farsi conoscere, di cercare effettivamente il dialogo. Salutarci, Nadia, perché abbiamo finito il tempo. Esatto, c'è il giornale radio. Ci hai dato un assist perfetto per parlare di fake news, e ne parliamo dopo il giornale radio. Con quelli di Lercio. Grazie, Nadia Buzzegri. 800 24 00 24, GR a dopo. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Mi ha detto mio cugino che una volta si è schiantato con la moto. Mio cugino. Mi ha detto mio cugino che poi si è tolto il casco e si è aperta la testa. Mio cugino. Mio cugino si è tolto il casco. Mio cugino si è aperta la testa. Ha detto mio cugino che una volta ha trovato in spiaggia un cane, invece era un topo. Non ci posso credere, ora mio cugino. Mi ha detto mio cugino che una volta è stato con una che poi gli ha scritto sullo specchio benvenuto nell'AIDS. Uguale. Mio cugino dopo cane e mio cugino benvenuto nell'AIDS. La ascolteremo anche tutta, questa mio cugino di Elio e le storie tese. Ciao Carlo, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati ascoltatori. E buongiorno da Carlo Gabardini. E buongiorno ad Alfonso Biondi, autore di Lercio. Ciao Alfonso. Buongiorno a tutti. Ciao Alfonso. Lercio. Gli nostri ascoltatori della domenica mattina, sintonizzatevi, accendete le antenne, perché se siete anzianotti forse Lercio non sapete cos'è. Perché il vostro pubblico è un pubblico di più di giovani, Alfonso, o no? Avete fatto un'analisi? Sì, questo? Diciamo, il nostro pubblico è abbastanza variegato, sì. Però diciamo che quello principale, il main target, se vogliamo essere un po' aziendalisti. Se vogliamo dire giovane. Delle parole inglesi la domenica mattina. Così, presto. A caso. Il main target sono i giovani. Cos'è Lercio? Te lo faccio dire a te. Che cos'è Lercio? Allora, Lercio è un bellissimo sito di fictional, sì, news, cioè facciamo notizie false di stampo satirico. Mio cugino. Me l'ha detto mio cugino. Bellissima. Mio cugino. Esatto. E il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è prendere un pochino in giro la stampa di oggi, quella 2.0, quella sensazionalista, quella che fa clickbaiting, quella brutta, diciamo. E se mi lasci aggiungere, direi anche e non solo, perché in realtà dentro nelle vostre notizie c'è un sacco di satira da tutti i punti di vista, ognuno la può vedere, anche perché siete tantissimi, siete un gruppo, non è un'unica persona che esprime un unico parere, però fate satira secondo me ad altissimo livello. Facciamo qualche esempio, così non ti mettiamo in imbarazzo. Sono entrato ieri, introdotta la scala Buffon, misura l'intensità delle bestemmie, per esempio. Oppure, quella... troppi metalli, sì, nei vaccini, bambino arrugginisce dopo il bagnetto. Qua stiamo proprio fantastici E in più, se posso aggiungere, sì, un'altra cosa, in realtà non sono solo i titoli, perché uno magari si immagina, sì, semplicemente di fare la battuta che è più spinosa, no? Che fa semplicemente la battuta. In realtà poi c'è tutto l'articolo. articolo, è più simile a cuore, se vogliamo, per gli appassionati. Quindi c'è tutto l'articolo che è scritto, che sono sempre scritti con un tono giornalistico o da stampa locale o da stampa nazionale, in cui in realtà poi si spiega esattamente di come mai arrugginisce, i genitori di questo bambino che si preoccupano e così via. Sì, esatto, diciamo che i nostri sono alla fine proprio dei falsi editoriali, se vogliamo, esatto. Comunque degli articoli che danno un punto di vista, ovviamente lo veicolano attraverso la risata, proprio diciamo la satira per eccellenza, almeno è quello che cerchiamo di fare, qualche volta ci riesce. Ecco, voi satira, fate ridere, ci fate ridere su Facebook, le vostre battute sono tra le più condivise, non c'è niente da fare, siete bravissimi. Motivo per cui ti abbiamo chiesto di essere con noi di domenica mattina, oltre che per parlare di questo, che non si può fare, anche questo, far sorridere con... E anche il desiderio di disturbarti. Disturbarti anche perché tu partecipi al Festival della Psicologia che si tiene a Roma in questi giorni, per l'incontro Fake News, la bussola impazzita, perché voi siete proprio, lo hai detto tu Alfonso, presentandoti e presentando Leccio, siete proprio sul crinale di queste fake news, ne avete fatto una forma di umorismo, anche se c'è una differenza non da poco con l'ambito delle vere fake news, cioè di chi cerca di diffondere notizie false. Sì, esatto, diciamo che a me piace pensare a Leccio come un portatore sano di fake news, infatti prima ho utilizzato la parola fictional news apposta per dare una sfumatura un pochino più umoristica, romanzata, eccetera. E ovviamente noi non facciamo fake news sono le bufale, quelle che hanno appunto lo scopo di ingannare. Noi stai mettendo le mani avanti giustamente, perché quando vieteranno le fake news, i siti che fanno fake news, voi direte ma noi siamo fictional news, siamo proprio un'altra cosa. Ecco, vi preoccupa questa ipotesi? Per esempio in Germania stanno introducendo delle multe, l'America vuol bloccare sui social la diffusione di queste fake news. È possibile che alcune delle vostre cose caschino in questa rete che pesca l'ambito delle fake news? Oppure siete tranquilli, siete al sicuro, perché il vostro umorismo è al sicuro da questo punto di vista? Sì, guarda, noi ci riteniamo abbastanza tranquilli, perché comunque nonostante utilizziamo un registro stilistico che è proprio, diciamo, della stampa, quindi magari a un lettore molto ma molto sprovveduto potrebbe suonare come, non so, un titolo di giornale. Infatti, per esempio, scusami, leggo questa: ti vesti da Finocchio, gruppo fascista aggredisce la maglia rosa al Giro d'Italia. Qualcuno potrebbe pensare che è accaduto veramente. Però. No, tra l'altro è qualcosa che accade tutt'oggi. Accadeva molto spesso quando siamo nati, sì. Perché appunto in Italia, soprattutto sul web, non c'era nulla del genere. Quindi non solo, diciamo, lettori sprovveduti, ma ti racconto che anche dei quotidiani abbastanza autorevoli hanno preso per vere delle nostre notizie. Ovviamente adesso siamo diventati un pochino più famosi, quindi la gente riconosce la nostra cifra stilistica e non incappa più in questi errori. Però effettivamente noi con le bufale, con le fake news, quelle brutte, quelle cattive, non abbiamo nulla a che vedere e siamo molto tranquilli. Tra l'altro questo tipo di satira che facciamo noi, che ci piace chiamare mock journalism, to mock in inglese significa perculare, è una cosa che esiste praticamente in tutti i paesi, sì. In tutte le democrazie occidentali, negli Stati Uniti c'è il The Onion che è nato negli anni 80, c'è il Daily Mesh in Inghilterra, il Der Postillon in Germania, in Francia c'è le Gorafi che è l'anagramma del Figaro, cioè un tipo di umorismo che magari in Italia facciamo sul web prevalentemente noi, che però negli altri paesi è molto molto diffuso ed è chiaramente riconoscibile come umorismo. Poi qualche volta il fraintendimento ci può stare, però la bufala nel nostro caso è incidentale, cioè è un incidente di percorso, non è il nostro obiettivo. Qual è, Alfonso, la notizia che avete diffuso e che i giornali nazionali hanno ripreso come vera? Io te ne leggo una, è accaduta in America, ha fatto il giro del mondo, non credo siate stati voi, o forse sì, è quella del satirico americano che dice che Trump avrebbe voluto abbattere la Statua della Libertà per mettere un'effigie della moglie, è stata ripresa anche dalla 7 da Repubblica. Eravate voi, no? O veniva direttamente dalla satira americana? Sicuramente non siamo stati noi. Questa. Però magari questo tipo di fraintendimento può accadere quando parli di personaggi ambigui, sì. E un po' controversi, come ad esempio può essere Trump. Ti faccio un esempio: noi scrivemmo una notizia sul ministro Cécile Kyenge, che era il ministro dell'integrazione del governo, sì. Letta. Abbiamo avuto un governo Letta in Italia, qualcuno Letta stai sereno, sì, certo, ce lo ricordiamo per Letta stai sereno, non per altro. Esatto, Enrico stai sereno, sì. E, praticamente scriviamo questo articolo a firma Vittorio Lattanzi, che è uno dei nostri autori, in cui che salutiamo, grande Vittorio, e che appunto questo articolo immaginava che il ministro Székely avesse proposto appunto di risolvere il problema dei migranti dandogli in pasto i cani e i gatti degli italiani, cioè una roba assurda, cioè il ministro dell'integrazione italiano, un ministro della Repubblica che dichiara pubblicamente di appunto prendere gatti e cani, animali domestici di tutti gli italiani per sfamare gli immigrati, cioè praticamente la cosa clamorosa è che molta gente l'ha prese per vera, dando appunto per scontato che un ministro della Repubblica possa essere così coglione da dire una cosa del genere. Ma è stata ripresa anche da qualche testata questa notizia? Questa, da qualche testata no, da qualche blog, sì. Però diciamo ce ne sono state altre, tipo uno dei nostri articoli più famosi, che è errore nel sistema operativo Radio Maria passa i Megadeth, che parlava appunto... Questa è stata ripresa e come? Questa è ripresa da un noto quotidiano nazionale. Tra l'altro una notizia assolutamente non fraintendibile, perché parlava appunto di questo dipendente che si chiamava Pio Settimino che nell'intervallo del programma che si chiamava A pranzo col corpo di Cristo, vabbè dai, straordinario, appunto, sì, sbagliò qualcosa, quindi inserì praticamente una penna USB nel computer principale, da lì partirono delle canzoni metal e a Pio Settimino fu chiesto risarcimento di 50.000 euro e tre Ave Maria, cioè una roba assurda. E però quindi un gli articoli di Lercio bisogna leggere, ecco, bisogna leggerli, non fermarsi ai titoli, perché assolutamente c'è da gustarseli fino in fondo. Sono pieni di perle. Caro Alfonso Biondi, tu hai ancora qualche minuto per restare con noi, perché noi dobbiamo fare informazioni sul traffico. So che tu hai l'incontro al Festival della Psicologia, se puoi rimanere dici sì, se no dici sì lo stesso. Ma lo sappiamo che l'incontro è alle 10. Tra pochissimo, due minuti e poi 800 24 00 24. Cari ascoltatori, non vi abbiamo ancora tirato in ballo, ma tra poco sarà il diluvio. Mi ha detto mio cugino che una volta si è schiantato con la moto. Allora, una di Lercio è questa: magliette gialle tra i terremotati puliranno le strade dalle tessere PD stracciate. Per dirne una, anche questa è diciamo verosimile, però insomma, difficilmente si può pensare a una notizia vera da questo punto di vista per ora, però ci stiamo incamminando. Alfonso Biondi, autore di Lercio, pensi che la strada, tornando sul tema delle fake news, che è un tema che vi è confinante, anche se voi fate dell'umorismo in realtà, quindi la differenza con le notizie false si può capire, basta poco, certo. Pensi che sia corretto, sia sensato cercare di bloccare la diffusione delle fake news, come è stato annunciato, lo dicevo anche prima, in Germania con delle multe, in America coinvolgendo i social network, bloccando, censurando, chiudendo, si parla di un authority anche a livello europeo, eccetera eccetera, è la strada giusta secondo te, oppure bisogna fare in modo che i lettori esercitino l'intelligenza, fidarsi dei lettori che capiscano la differenza tra notizie vere e notizie false, eccetera. Sì, ovviamente qui ognuno la pensa come la vuole. Dal mio punto di vista, intervenire con una legge sarebbe proprio l'estrema ratio. Secondo me bisognerebbe investire molto in cultura, perché il problema dilagante che hanno praticamente fatto venire a galla i social, e qui in Italia c'è un analfabetismo funzionale dilagante, cioè molta gente legge, sa leggere, però appunto non capisce quello che legge, quindi è un problema secondo me più culturale e che va risolto alla radice. Lì bisogna fare un pochino più però, cultura e degli strumenti. Hai ragionissimo, ma si rischia di doverci mettere tipo 45 anni in questo modo. No, nel senso che secondo me una delle prime cose importanti è separare le fake news da, per esempio, quello che fa Lercio. Perché molte persone, noi adesso ne parliamo molto tranquillamente dicendo ovvio che è un'altra cosa, invece molte persone pensano che le fake news siano qualunque notizia notizia che non sia vera. Invece non è così, la fake news è esattamente uno che inventa una notizia per far male a qualcuno, per avere un vantaggio, non per far ridere. E quindi questa cosa qua è fondamentale. È una differenza non da poco. E il rischio invece è esattamente l'opposto, ovvero che attraverso questa cosa di bloccare tutte le fake news si decida di chiudere l'ercio, che invece è un altro tipo di operazione. Sì, sì, sì, come ti ho detto prima, però da questo punto di vista noi ci sentiamo tranquilli. Abbastanza tranquilli, sì, perché cioè, non posso credere che le notizie di Lercio possano essere scambiate come, possano passare per fake news, cioè secondo me è proprio una cosa... No, no, ma sono d'accordissimo, possono passare come fake news solamente se c'è del dolo e qualcuno che desidera chiudere. Mm. Siete talmente bravi, voi di Lercio, che è nata una pagina Facebook che si chiama Ah, ma non è Lercio, che... Che non siete voi, no? Però... Non siamo noi, però... è un omaggio che ci hanno fatto, esatto, si tratta di una pagina che rilancia degli articoli scritti da giornali, diciamo, tradizionali. Questa volta veri, verissimi, esatto. Verissimi, esatto, i cui titoli spesso e volentieri assomigliano molto a delle notizie di Lercio. Ti racconto anche una cosa, sì. Una cosa che faremo oggi qui al Festival della Psicologia, che facciamo spesso. Praticamente alla fine dell'intervento io mostrerò al pubblico delle notizie, ok? Senza dir loro se si tratta di una notizia nostra, quindi di Lercio, oppure una notizia pubblicata da un giornale tradizionale, e il pubblico dovrà capire appunto se quella notizia è vero o Lercio. Il gioco si chiama Vero Lercio e ti assicuro che una volta su due il pubblico sbaglia sempre. Oggi il la linea di confine tra la satira e la verità sta diventando davvero davvero molto labile. Ma qui ci sono anche delle responsabilità, per esempio i giornalisti. È vero che ci sono giornalisti, per esempio di cronaca locale, titolisti, che fanno il titolo proprio per cercare magari di finire su Amano nell'Ercio. Cioè, secondo come scrivi le cose, no, puoi facilmente suscitare la risata, però è corretto secondo te, dal punto di vista di uno che fa invece di mestiere il giornalista, una roba Guarda, del genere? No? Secondo me no, però mi metto, diciamo, anche nei panni del povero cronista di provincia. Sì. Comunque oggi quello che ti fa guadagnare su internet sono le pagine viste, quindi più pagine viste fai, esatto. Più click fai, più fai guadagnare il tuo giornale. Quindi è normale che un titolo apparentemente neutro e più corretto deontologicamente magari non sia, magari possa passare inosservato. Invece utilizzare un titolo a chiappa click, come si dice in gergo, può aiutare a generare traffico sulla pagina, e quindi è una scelta su cui si vira troppo frequentemente. Però non lo fanno solo i giornali, ovviamente, di cronaca locale, lo fanno anche i grandi quotidiani, e lo sappiamo. È solo che lì il cortocircuito tra notizie, false notizie, fake news, notizie create da Lercio con l'intento di farci sorridere, notizie vere ma che fanno ridere e che uno potrebbe essere indotto a pensare che non siano vere, ci si diventa matti. Uno è indotto a pensare che la verità non esista. Questo è anche vero, oggi la verità, soprattutto sui social, è qualcosa di molto aleatorio, di molto vago, soggettivo addirittura, e in effetti questo qui è un grosso, grosso problema. Ma voi non sapete chi sono quelli di Amano nell'Ercio? Sì, in realtà sono degli amici, e quella pagina è appunto un omaggio. Tra l'altro si racconta una cosa, non so se sia vera, vabbè, però visto che stiamo parlando di Lercio ve la racconto. Certo. Si dice che praticamente quella pagina inizialmente si chiamasse tipo Notizie Incredibili o qualcosa del genere, poi non ce la filava nessuno, l'hanno chiamata Amano nell'Ercio e hanno avuto il boom anche loro, e ci fa molto piacere che questo piccolo omaggio abbia avuto successo. Siete diventati successo. Un super brand da questo punto di vista. Sì, e tra l'altro è un'operazione doppia, perché è il doppio salto della frittata. Prima giustamente arriva Lercio e poi uno addirittura dice: pensate che ci sono giornali e cosiddetti giornalisti italiani che in realtà spacciano titoli assurdi per notizie inutili. Esatto, e tra l'altro mi dicono che ci dovrebbe essere anche un ma ano nell'ercio, cioè una roba addirittura. Aiuto, mi gira la testa. Mi gira la testa. Grazie Alfonso Biondi, autore di Lercio. Salutiamo anche tutti i colleghi, siete in tanti. Metà di mille, siete sempre stupendi. In 30, io volevo salutare Carlo perché Carlo lo vediamo ogni anno alla festa della rete, è un grande amico, quindi sono un ammiratore. Grazie. Un piacere. Grazie. E poi volevo fare un piccolissimo spot, perché praticamente il 13 aprile è uscito il nostro libro. Sì. Si chiama Lercio, lo sporco che fa notizie, il libro edito da Shockdom, prefazione di Daniele Luttazzi, e quindi se volete acquistarlo ci fa piacere. Anche perché abbiamo ricordato Luttazzi, che in qualche modo è il vostro padrino, se vogliamo, perché vi siete tutti inizialmente conosciuti lavorando a un blog di Luttazzi e poi dopo è diventato altro, giusto? Esatto, Luttazzi è stato il nostro maestro, possiamo tranquillamente dire che senza Luttazzi Lercio oggi non esisterebbe. Bravo. Tra l'altro io mi sono fatto un giro ieri, proprio prima dell'intervista, per rinfrescare un po' la memoria, perché normalmente vi vedo sui social, non ho visto sponsorizzazioni, è una scelta oppure ho visto male io? Lercio di che cosa campa? Cioè voi campate d'altro, campate di quello, come... Allora, noi per tutti noi redattori Lercio è un secondo lavoro non retribuito, diciamo. Ognuno di noi fa altro, perché comunque siamo tanti, la redazione è bella grossa, quindi vivere di quello non riusciamo. Gli introiti che abbiamo sono appunto quelli delle piccole pubblicità che abbiamo sul sito. Ovviamente i nostri contenuti non sono sponsorizzati, noi non diciamo, la nostra linea editoriale è purissima, gli spazi pubblicitari nel sito sono chiaramente riconoscibili, da questo punto di vista siamo abbastanza integerrimi, e poi abbiamo altre collaborazioni, abbiamo il libro, siamo su Radio 2, da poco negli ultimi due mesi siamo stati su D-Max col TG Lercio, quindi riusciamo a coprire le spese e sì, a sopravvivere. E quindi comprate il libro, ripetici il titolo? Si chiama Lercio, lo sporco che fa notizia, il libro. Perfetto, grazie. Perfetto, grazie mille, io vi voglio moltissimo bene e speriamo di vederci anche prima della prossima festa della rete. Vi abbraccio. Grande un sacco. Carlo. Grandi, ciao. Appuntamento, ciao. Se volete, oggi al Festival della Psicologia che c'è a Roma, con l'incontro tra l'altro con l'autore di Lercio, ma ci sono tante altre cose belle da fare, sentire, vedere, dire, fare, baciare, com'era, lettere e testamento. 800 24 00 24. Sara da Monza, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Prego. La risposta è, sì, il cognato di Trump, Jared Kushner. Il cognato di Trump. Il personaggio della settimana, perché hai scelto lui? Spiega. Allora, è un po' complicato, nel senso che... la trasmissione, confesso, non la stavo ascoltando io, ma la stava ascoltando mio marito, che però è uscito dicendomi chiama, perché io ero alle prese con i due bambini, lui aveva il doppio della domenica mattina, sì, chiama Radio 24. Allora ti spiego io, ti spiego perché hai chiamato. È tu ci hai chiamato perché noi stiamo cercando un personaggio della settimana che abbiamo detto, nell'occhio del ciclone, come indizio, è nell'occhio del ciclone. Ah, ok, Russia Gate allora. Allora, ecco, posso recuperare in corner, okay? Bravo, ci sei arrivato. Ha recuperato benissimo. Però ma non è lui, non è lui il personaggio. Accidenti. Sara, grazie per aver chiamato. Va bene. Non era lui il personaggio, noi ci teniamo sempre molto a farvi spiegare il motivo, perché così ci aiutate anche a raccontare altre notizie. Kushner, esatto, è stato accusato di essere lui la persona di collegamento con il Cremlino e di aver addirittura richiesto una linea personale segreta con la Russia. Lucia da Roma, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Trump, presidente americano. Trump. Ah, avevamo sentito Trump. Avevamo sentito Trump. Invece Trump, Lucia. Trump. Perché lui? Per lo scandalo appunto del genero, della Russia e compagnia. Ok, sempre su questa notizia. Per lo stesso scandalo. Non è lui. Non è lui, Lucia. Non è lui. Possiamo dare un pezzo? No, non dico niente. Non dico niente. Volevo dare un pezzo di volevo dire che comunque i nostri ascoltatori sono bravi, perché in qualche modo stanno citando, anche avvicinando. Antonio da Caserta, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Io penso che sia Flavio Insinna. Perché? Diciamo che non è che ha passato una buona settimana, sicuramente. Diciamo, non ha fatto una bella figura, quindi penso che sia sicuramente a prescindere nell'occhio del ciclone. Qualcuno ha voluto sputtanarlo facendo la notizia. Scusate, no, vai, giusto. Striscia la notizia ha fatto un servizio in cui ha mostrato in Sinna che trattava male nel dietro le quinte i concorrenti e si comportava in un brutto modo, e lui adesso ha fatto anche un video in cui ha risposto dicendo: in realtà Striscia la notizia mi attacca perché io, quando mi hanno dato il tapiro, ho detto che Ezio Greggio ha dei problemi fiscali e così via. Insomma, è iniziata una saga che credo che non sia terminata, però il personaggio non è lui. Volevo solamente ricordare il motivo di Flavio Insinna. Buona giornata. Ciao. Stefano da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Poi prepariamo anche un secondo indizio a questo punto per il nostro personaggio della settimana. Vai Stefano. Mi sentite? Sì, forte e chiaro. Perfetto. No, io volevo intervenire in relazione alla ragazza di prima, presidentessa dei giovani musulmani italiani, se non sbaglio. Sì? Perché io premetto che sono agnostico. Quindi la mia posizione è che come essere umano non ho i mezzi né per essere sicuro che vi sia un'entità superiore, né per essere sicuro che non vi sia. Sì. Ci stiamo incamminando su una strada. Non sono sicuro di aver capito io. Sì, beh, fondamentalmente vi sono i più famosi che sono gli atei, che però loro stessi, l'ateismo vuol dire io sono sicuro che non vi sia un'entità superiore. Certo, però... l'agnostico invece è un atteggiamento diverso perché non sa. L'agnostico non sa. Dice non sa, cosa, so di non cosa sapere. Che sa sì. È che non ha le... che non ha, diciamo, la sensibilità per essere certo di qualcosa. Sì, certo. E gli strumenti. Esatto. La vostra domanda di prima era quella come chi sta fuori reagisce nel sentire, per esempio, che adesso incomincia il mese del Ramadan. Io ho chiesto qual è l'impatto per noi tutti, musulmani, ma anche cristiani, atei, agnostici, chiunque, di questo mese che comunque cambia un po' le abitudini di alcune centinaia di migliaia di italiani, che è il digiuno di Ramadan. E arrivando al punto, Stefano, il tuo impatto qual è? La tua valutazione? Sono arrivato al punto che effettivamente è encomiabile, perché se ci pensate bene, nel 2017, con tutti gli avanzamenti scientifici, con le hard evidence, che in qualche maniera possono anche creare una sorta di pensare che effettivamente non vi sia qualcosa, comunque riuscire ad avere ancora la spiritualità per porsi in una situazione fondamentalmente un po' complicata, un po' complessa. Ce l'ha spiegato prima la signorina Nadia Buzzecri, sì. Effettivamente è commiabile, perché comunque vuol dire che se ne dica avere una notevole tempra, non vorrei dire morale, ma una notevole tempra. È una fede poi in realtà, perché questo accade da una parte e dall'altra, no? La fede è qualcosa a cui io tendo a tenermi distaccato, perché certo. Il credere esattamente a qualcosa, io ho il dubbio, io credo nel dubbio, perciò ho sempre avuto l'impressione che la fede sia anche quasi un atto intrinseco di violenza, e questo per qualsiasi fede, che fosse cristiana, musulmana, la fede ebraica, piuttosto che le fedi politeiste come quella indù. No, ma mi è molto chiaro il discorso che io fai. Starei ad ascoltarlo per ore, questo ascoltatore, perché a me personalmente questo tipo di ragionamenti intrigano. Io ti ringrazio Stefano, ci risentiremo sicuramente qualche altra volta. Adesso però dobbiamo andare avanti, dobbiamo soprattutto dare un indizio secondo indizio agli ascoltatori che annaspano, anche se tutto sommato si stanno anche avvicinando. Quello già era un pezzo di indizio, ma il secondo indizio è che il personaggio che stiamo cercando è invidiato, è nell'occhio del ciclone ed è invidiato. 800 24 00 24, tra poco. Pochino mi viene da ridere. Divento serio invece per scusarmi con la signora della Val d'Aosta, ma preciso, mi scuso con la concorrente. Quello sfogo che avete sentito dagli amici di Striscia è in una scala del Teatro delle Vittorie a porte chiuse tra le stanze appunto nostre e i camerini. E io mai, vi posso dire, ho tanti difetti, ma davanti a una signora non avrei mai detto quello. In una famiglia buona. Ecco, questo con un post su Facebook, Flavio Insignia si è scusato con la concorrente. Lui introduce questa distinzione tra la signora e la concorrente, che in questo audio rubato, però bisogna dire la verità, questo audio era rubato in una conversazione di lui con privata con altre due o tre persone. Io in una conversazione privata posso dire quello che mi pare, posso dire Carmelo Lauricella è il regista peggiore, e anche usare cose che c'è a Radio 24. Lo sto dicendo a Carlo e non sto commettendo un reato. Non devo neanche chiedere reati, scusa. Nessuno sta parlando di reati, ovviamente. Reato anche dal punto di vista morale. È semplicemente però, che era anche un momento in cui su Flavio Insignia, in diverse interviste, lui aveva proprio puntato il dito sul fatto che diceva il problema dell'Italia è che è un paese che umilia le persone. Poco gentile, io non voglio un paese così. E poi è stato beccato in questo momento. Va detto, come giustamente stavi dicendo tu, Alessio, che tutti noi in dei momenti, soprattutto nei momenti in cui stiamo lavorando e ci stiamo arrabbiando, perché Insignia non è che si lamenta della concorrente, si lamenta di chi l'ha scelta, perché dice la sera quando facciamo questa cosa qua bisogna scegliere meglio i concorrenti. Adesso, senza entrare nel merito, ognuno può pensare quello che vuole, però è il fatto di uno sfogo di un uomo che sta lavorando. Poi i toni che usa sono i toni che effettivamente nessuno si sarebbe aspettato da Flavio Insignia, perché poi è questa la vera questione. E questo era il video di risposta che lui ha fatto con un live su Facebook di 23 minuti. Altro tema della settimana, la decisione del TAR del Lazio che ha revocato, lo sapete, se avete sentito Radio 24 ne abbiamo parlato molto, ma ne hanno parlato tutti, ha revocato la decisione del ministro Franceschini, il bando col quale, che poi è complicato perché c'è un bando con cui sono stati assunti i direttori dei musei anche internazionali. Il TAR del Lazio ha stabilito che devono essere dirigenti, devono essere italiani dirigenti della pubblica amministrazione. Era un bando, ma era in realtà anche una nomina in qualche modo fiduciaria del ministero. Ci sarà un ricorso. Sentiamo uno di quelli sfiorati da questa decisione, l'abbiamo sentito tante volte anche noi, Heike Schmidt, direttore degli Uffizi. Lui però non è tra quelli revocati. Sentiamo cosa ne pensa il signor Schmidt, tedesco, nominato un anno fa direttore degli Uffizi per rilanciare i musei italiani, di questa decisione del TAR del Lazio che impedisce a non italiani di essere direttori di musei in Italia. Quello che si vede negli altri paesi europei, senz'altro, ma del mondo, pensando ai Stati Uniti dove ho passato 15 anni, è che naturalmente per quei posti anche dirigenziali spesso sono dei stranieri oppure dei cittadini europei. In Germania ci sono parecchi dirigenti di altri paesi, al Museo di Berlino, dove il Dipartimento della pittura barocca viene diretto da Roberto Contini. Mi sorprenderebbe di apprendere che in Italia non dovrebbe essere rispettata questa norma europea. Va bene, la cosa è controversa perché qualcuno tira in ballo il diritto europeo, diritto comunitario, che invece apre le porte alla libera circolazione delle persone e quindi anche dei direttori dei musei. La legge che prevede l'italianità di queste figure, secondo altre interpretazioni, in realtà si riferisce a ruoli dove c'è in ballo la sicurezza nazionale strategica, tipo ammiraglio, non può essere un francese che fa l'ammiraglio in Italia. Che ci sta giustamente, è un altro ambito. Staremo a vedere. Ne abbiamo parlato spesso. Noi l'avevamo salutata come una buona notizia. Esatto. Noi tifiamo che i direttori siano i migliori. Onestamente, da dove siano nati, di che colore abbiano la pelle, quale religione abbiano, quali preferenze sessuali, a noi ci interessa poco. C'è Daniele che ci chiama da Reggio Calabria. Buongiorno. Ciao, buongiorno ragazzi, come state? Molto bene. Abbastanza bene, sì. Tu? Sì. Io per fortuna bene, sono con le mie figlie, quindi sto da Dio. Fantastico. Su cosa ottimo intervieni? Intervenivo per il personaggio sconosciuto Di questa settimana. Da indovinare. Chi è? Ma secondo me è Francesco Totti. Nell'occhio del ciclone, invitato. Perché? Invitato, qual è la notizia? Sarà invitato per la moglie, per i soldi, dai, ce n'è tanto. O perché sta andando in pensione da giovane? Vabbè, è una domanda provocatoria. Quanto vuole, bellissimo. Vabbè, la notizia su Totti, te la chiedo, diritto, sì, perché lo sappiamo tutti. Ha detto che ormai oggi sarà l'ultima sua partita alla Roma, alla fine è un fatto storico. Il Totti Day, sì. Totalmente è storico. È l'unico giocatore ancora in Italia che è stato veramente fedele a una maglia. Una bandiera. Era un grande si può fare, in effetti, questo qua, avremmo tranquillamente potuto sceglierlo. Certo, c'è stata anche in battaglia anche pensato, in redazione, anche perché se posso aggiungere, è bella la risposta che ha dato Totti, perché in realtà lascia tutti col fiato sospeso, perché cosa vuol dire l'ultima partita alla Roma? Nel senso, diventerà dirigente della Roma e quindi non andrà più in campo, o inizierà a giocare per un'altra squadra? Non era comunque lui il personaggio. Daniele, grazie. 800 24 00 24, cerchiamo ancora un personaggio che è nell'occhio del ciclone ed è invidiato. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. Sulle note dei Coldplay, sulle note di Up and Up, salutiamo, diamo il buongiorno, siamo lieti di averlo con noi, ex presidente dell'Istat, ex ministro Enrico Giovannini, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Lo abbiamo convocato nella veste di portavoce dell'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile. È un tema, insomma, sono tanti temi in realtà, Giovannini, quello dello sviluppo sostenibile, che ci sta molto a cuore. C'è un festival che è partito proprio in questi giorni, itinerante per l'Italia. Vogliamo intanto dire così due parole su questo festival? Sì, è il primo festival italiano dello sviluppo sostenibile promosso dall'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che riunisce più di 160 soggetti, dalla Confindustria alle altre organizzazioni datoriali, al mondo cooperativo, ai sindacati, alle fondazioni, al mondo del volontariato, tutti uniti per realizzare in Italia quello che l'Italia si è impegnata a fare a Parigi, ma anche a settembre 2015, con l'approvazione dell'Agenda 2030 e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che vanno dalla povertà all'educazione alla tutela dell'ambiente. E allora abbiamo deciso di in qualche modo provocare una riflessione diffusa sul territorio, quindi abbiamo circa 200 eventi su tutto il territorio nazionale dal 22 maggio al 7 giugno. Se gli ascoltatori vogliono saperne di più, possono visitare il sito festivalsviluppo-sostenibile.it. Guarda com'è bravo già, Giovannini, ha fatto perfetto in un minuto. E soprattutto è bellissimo, è un festival con una quantità di sale pazzesca, perché è un festival che si svolge su tutta la penisola. Sì, abbiamo iniziato a Napoli lunedì con quattro ministri sul tema delle disuguaglianze, tutte le disuguaglianze, non solo quelle di reddito, ma anche quelle di genere, di istruzione, che poi condizionano spesso l'evoluzione nel corso della vita. Pensate che tra un laureato e una persona con la licenza media ci sono 5 anni di speranza di vita, cioè un laureato ha la probabilità di vivere 5 anni di più. Chi non ha qui studiare fa bene, Giovannini, studiare fa bene. Studiare fa bene, ma... e poi è importante per il lavoro, naturalmente. Bisogna dire che quindi bisogna assolutamente laurearsi in 5 anni, perché sono quelli che poi vivi in più. Non è che se ce ne metti 8 è un disastro. Poi va in saldo negativo. Senta, Giovannini, però questi temi sono molto anche difficili da afferrare per il cittadino comune, per l'uomo comune. Ammettiamo che l'ascoltatore di Radio 24 sia mediamente più informato degli altri, però non ci scommetterei necessariamente. Che cosa, come si può parlare concretamente a mia nonna dello sviluppo sostenibile? La butto lì, uno sviluppo sociale, economico, quindi il lavoro, soprattutto il lavoro, che non bruci risorse umane, cioè le persone, non sprechi risorse ambientali, non sprechi quindi le risorse, ma le utilizzi in maniera diversa da come è stato fatto in passato. Potrebbe essere questa una prima approssimazione? La definizione classica è quella che dice che uno sviluppo che consente alla generazione presente, cioè a noi, sì, di soddisfare i nostri bisogni senza ridurre la probabilità, le possibilità delle generazioni future. Che in passato non è stato così. No, infatti infatti per molti anni questo è stato un tema soprattutto declinato in termini ambientali, ma ormai sappiamo che le disuguaglianze, la mancanza di lavoro, ma anche le migrazioni, che sono a loro volta dovute a cambiamenti climatici, a guerre e così via, rendono insostenibile la situazione economico-sociale e addirittura quella delle istituzioni. Insomma, questo concetto, che appunto è stato declinato, come dicevo, con 17 obiettivi e 169 sottobiettivi molto precisi. Le faccio un esempio: l'Italia si è impegnata a ridurre drasticamente il numero dei giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET, sì, che sono 2,2 milioni, entro il 2020. Oppure si è impegnata a far sì che tutte le città si dotino ancora entro il 2020, cioè domani mattina, di piani per far fronte al cambiamento climatico. Mm. Quindi si può passare appunto da questo concetto che sembra molto vago a comportamenti molto concreti, ed è quello che stanno facendo quasi tutti i paesi del mondo. L'Italia sta definendo una sua strategia di sviluppo sostenibile che speriamo tra qualche settimana venga presentata all'ONU, come gli altri paesi stanno facendo, però è un problema perché questa deve essere una strategia di lungo termine. Sì. E con la frammentazione politica, con le elezioni alle porte, non è facile per il paese costruire questo piano a lungo termine. Ed è quello che abbiamo provato a fare noi come Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Ecco, su uno dei punti importanti, lo ricordava anche lei Giovannini, sono stati gli accordi di Parigi sul clima, il fatto di investire in energie rinnovabili che hanno appunto la caratteristica di non bruciare risorse e di essere replicabili per le future generazioni. Si è appena chiuso un G7 a Taormina nel quale, se abbiamo capito bene, l'America non ha fatto nessun tipo di retromarcia su quella che è già stata la retromarcia sugli accordi di Parigi, cioè sostanzialmente Trump non vuole allinearsi su quegli obiettivi. È una, come dire, una descrizione sommaria sbagliata di quello che è successo, oppure in effetti è così? In questo momento c'è una specie di braccio di forza tra l'Europa, braccio di ferro, gli Stati Uniti, con la Cina che invece ha dichiarato più volte di volersi allineare agli obiettivi degli accordi sul clima. La sua sintesi è molto concreta, molto precisa, e devo dire c'è un elemento molto positivo, è che l'Europa compatta si oppone a un eventuale modo per tornare indietro. Siamo sicuri, compatta su questo, perché sarebbe una notizia, per la prima volta nella storia l'Europa è compatta. Questo mi sembra esattamente la notizia, perché sia Germania che Francia sono su questo molto allineati, anche perché vedono l'opportunità, come si dice, di business, di una transizione a un diverso modello di sviluppo. Pensi che Macron non ha creato il ministro dell'ambiente, ma ha creato il ministro della transizione ecologica inclusiva, cioè solidale. Politici italiani, prendete appunti, ci sono le elezioni l'anno prossimo, forse anche prima, mi raccomando, prendiamo un po' di appunti, oltre che impressionarci per l'inno alla gioia nel momento dell'elezione di Macron. Senta Giovanni, lei è stato, dicevo, presidente dell'Istat, ministro, è stato più difficile fare il ministro del governo Letta o convincere le aziende italiane, le amministrazioni pubbliche, tutti a investire nello sviluppo sostenibile? Ma le dico che sinceramente è stato straordinario che in un anno siamo arrivati a 160 aderenti. Questo è, quindi è stato più difficile essere ministro del governo Letta. Decisamente. questo è un segnale secondo me molto importante. Tra l'altro è importante che voi come emittente del Sole abbiate un'attenzione particolare a questo, perché le imprese stanno saltando su questo nuovo paradigma perché ne vedono i vantaggi. Tra noi ci siamo lunedì, Giovannini, su questo assolutamente. E lunedì saremo a Milano per discutere proprio il ruolo delle imprese e della finanza per lo sviluppo sostenibile. Ci saranno il ministro Calenda e il ministro Galletti, ma soprattutto ci saranno i presidenti delle grandi associazioni imprenditoriali e della finanza, che si prenderanno alcuni impegni importanti. Tutti uniti per lo sviluppo sostenibile. Grazie a Enrico Giovannini per essere stato con noi. Tutti gli appuntamenti del Festival dello Sviluppo Sostenibile li trovate sul loro sito. Vi segnalo solo che oggi a Parma ci sono le degustazioni alla Food Forest Picasso, che è una foresta incredibile, piccola foresta urbana nella quale sono stati piantati alberi da frutta. Chiunque può andare e mangiarsi, che so, un melograno, una susina. Melograni ci sono adesso, no? Questo non è stagione, lo so. Io invece volevo ricordarne che il primo dei 17 obiettivi di cui abbiamo appena parlato è porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. Non mi sembra male come inizio dei 17 obiettivi di cui ci stava parlando ora Giovannini. Traffico, siamo un po' in ritardo, 800 24 00 24. Cerchiamo un personaggio della settimana che è nell'occhio del ciclone, è invidiato. E aggiungiamo un terzo indizio, è una prima donna. Qui stiamo proprio sbracando, eh. Vai. Allora, abbiamo Vincenzo che ci chiama da Bologna. Benvenuto Vincenzo, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Salve, salve. Ciao Carlo. Su cosa volevi intervenire Vincenzo? Allora, volevo provare a indovinare il personaggio, sì. Che per me poteva essere, visto anche l'indizio che avete dato, era Melania Trump. Perché? Possibile. Perché, vabbè, il marito un po' nell'occhio del ciclone. Invidiata perché ovviamente è bellissima e ricchissima, e poi anche un po' per le scene che hanno fatto vedere per televisione, quando lui poverino cercava di tenersela vicino, tenersela per mano, lei cercava apparentemente, scantonava, sì, infatti, non se lo fumava molto. E sullo scantonamento di Trump a sua moglie scatta l'applauso. C'è sembrato insomma che fosse lei il personaggio che si segnala, un po' vuoi per il soprabito fiorito da 50.000 euro un po' fuori luogo, vuoi per la comparsata dal Papa che anche lì è stato detto che indossavano abiti, vuoi per il fatto che mezzo mondo la guarda con un misto di comprensione e compassione forse, perché sta a fianco ad un uomo molto discusso. Sì. E poi perché anche insomma, tutta la storia del velo. A me mi ha colpito molto la storia del velo, del fatto che si sia presentata dal Papa con il velo e invece in Arabia Saudita senza. Dopo che Trump nel 2015 aveva criticato moltissimo Michelle Obama, che era andata senza velo in Arabia Saudita. Sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso. Sulle note di Pensa di Fabrizio Moro, la bellissima canzone dedicata da Fabrizio Moro a tutti gli uomini impegnati sul fronte della legalità nella settimana in cui si è celebrato l'anniversario della strage di Capaci, la morte di Giovanni Falcone. È con noi Salvatore Cantone, buongiorno. Buongiorno. Salvatore Cantone lo ospitiamo molto volentieri, anche se il tempo a disposizione non è tantissimo. È un imprenditore, ha denunciato il pizzo, oggi è presidente dell'associazione antiracket di Pomigliano d'Arco, Noviello, e insomma siete tra quei pochi che ci forniscono, pochi forse tanti, ma insomma voi sicuramente lo fate, buone notizie sul fronte della legalità in Italia. Faccio sentire velocemente anche la famosa frase, giusto farla sentire, di Falcone quando parlava del fatto che la mafia si può sconfiggere. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Cantone, io so che in questi giorni lei sta ospitando, state interloquendo con una delegazione dell'Università Americana che è venuta a studiare come voi, da quelle parti, state facendo anti-racket. Complimenti. Vengono da noi per capire come funziona un'associazione anti-racket. E più che altro per far capire, in effetti con l'avvento delle associazioni antiracket diciamo che è cambiato un po' tutto, sia per le vittime che non vengono più sole, non vengono lasciate più sole, ma anche nella fase del processo, anche perché questi qua sono studenti che studiano legge, quindi magari ne parliamo con loro di come viene affrontato un processo di una vittima di estorsione, di usura, perché ormai nel processo la vittima che prima, poco tempo fa, era sola ed era in balia dei familiari degli estorsori in un'aula del tribunale. Adesso con l'avvento con le associazioni antiracket questo non è più. C'è una vittima che decide di denunciare, non viene accompagnato dai suoi stessi colleghi, perché noi siamo tutti imprenditori. Ma sta aumentando il numero di denunce anche proprio concretamente a livello di numeri, visto questo impegno dell'antiracket o no? Io penso che sempre è un aumento piccolo. Anche perché oggigiorno, con le leggi che ci sono, con le forze delle istituzioni, le associazioni. Chi non denuncia è perché c'è rapporti con la mafia. Oggigiorno conviene denunciare, perché non si è più sempre. Ecco, questa mi sembra un'affermazione di una precisione incredibile. Cioè, lei sta dicendo oggigiorno, con tutto quello che c'è, con voi associazioni, chi non denuncia è dalla parte della mafia. Sì, è così, c'è, perché c'è rapporti con la mafia. Oggigiorno veramente bisogna denunciare. Salvatore Cantone, io prometto di risentirci presto, perché bisogna dare più visibilità sicuramente a storie come la sua, l'associazione Antiracket Pomigliano d'Arco Noviello. Adesso purtroppo c'è il giornale radio, purtroppo anche per fortuna, da un altro punto di vista. Grazie intanto per essere stato con noi. Noi ci risentiremo nel prossimo weekend. Io ringrazio Andrea Piana, Lorenzo Nespoli, Claudia Schiattone, Carmelo Rolice nella regia. Ciao da Alessio Maurizi. E ciao da Carlo Gabardini. A sabato prossimo, ciao.